Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, seconda favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Cateruzza, schiaritasi la voce alquanto, in tal guisa disse. Favola seconda. Due fratelli soldati prendono due sorelle per mogli, l'uno accareccia la sua ed ella fa contra il comandamento del marito, l'altro minaccia la sua ed ella fa quanto egli le comanda. L'uno addimanda di modo di far che gli ubbidisca, l'altro glielo insegna. Egli la minaccia ed ella se ne ride, e al fine il marito rimane schernito. Il savio è aveduto medico, quando vede una infermità doversi causare in alcun corpo umano, a conservazione sua prende quelli rimedi che gli paiono migliori, non aspettando l'infermità sopravvenga. È perciò che la piaga recente con agevolezza maggiore si sana che non si fa la vecchia. Così parimenti, mi perdonerete donne, debbe fare il marito quando prende moglie. Cioè non lasciarla aver balia sopra di lui, a ciò che, volendole poi provvedere, non possi, ma la compagni fino alla morte. Sì, come avvenne ad un soldato, il quale, volendo castigar la moglie e avendo troppo tardato, pazientemente sopportò fino alla morte ogni suo difetto. Furon, non molto tempo fa, in Corneto, castello di Roma nel patrimonio di Santo Pietro, due fratelli giurati, i quali non altrimenti s'amavano, che se di uno istesso ventre nati fossero, l'uno di quali chiamavasi Pisardo, l'altro Silverio, ed ambidue facevano l'arte del soldato ed avevano stipendio dal papa. Ed avenga che l'amor tra loro fosse grande, non però abitavano insieme. Silverio, che era minore di età, non avendo governo, prese per moglie una figliuola d'un sarto, Spinella chiamata, giovane, bella e vaga, ma di cervello gagliarda molto. Fatte le nozze e menata la moglie a casa, Silverio della lei bellezza sì fattamente s'accese che li pareva non poterle dar parangone, e le compiaceva di tutto quello che ella gli addimandava. Per il che Spinella venne in tanta baldanza e signoria che nulla poco conto faceva del suo marito. Ed il caprone era già venuto a tal condizione che, quando le imponeva una cosa, ella ne faceva un'altra, e quando egli diceva «Vien qua», ella andava in là, e di lui se ne rideva. E perché il minchione non vedeva per altri occhi se non per gli suoi, non ardiva riprenderla né al difetto prendeva rimedio, ma a suo bel grado la lasciava far ciò che voleva. Non passò l'anno che Pisardo prese per moglie l'altra figliuola del sarto, nominata Fiorella, donna non men bella d'aspetto né men gagliarda di cervello di Spinella sua sorella. Finite le nozze e tradotta la moglie a casa, Pisardo prese un paio di bracche da uomo e due bastoni e disse: «Fiorella, queste sono bracche da uomo. Piglia tu l'un di questi ed io prenderò l'altro e combattiamo le bracche qual di noi le debba portare. E chi di noi sarà vincitore, quello le porti. E chi sarà perditore, quello stia ad ubbidienza del vincente». Udendo Fiorella le parole del marito, senza mettergli intervallo di tempo, umanamente rispose: «Ahimè, marito, che parole son queste che voi dite? Non siete voi il marito e io la moglie? Non debba star la moglie ad ubbidienza del marito? E come io mai potrei far tal pazzia? Portate pur voi le bracche, che a voi più che a me si convengono». «Io adunque», disse Pisardo, «porterò le bracche e sarò il marito, e tu, come mia diletta moglie, starai all'ubbidienza mia. Ma guarda che non cangi pensiero, né vogli tu esser marito io la moglie, a ciò che poi tu non ti dogli di me». Fiorella, che era prudente, confermò quanto gli aveva detto, ed il marito in quel punto le diede il governo di tutta la casa e consegnòle le robe, dimostrandole il modo e l'ordine del viver suo. Dopo disse: «Fiorella, vieni meco, che io ti voglio mostrare i miei cavalli ed insegnarti come li debbi governare quando fia bisogno». E giunto alla stalla disse: «Che ti pare, Fiorella, di questi miei cavalli? Non son belli? Non son ben tenuti?» A cui rispose Fiorella: «Signor sì». «Ma guarda», disse Pisardo, «come sono maneggevoli e presti». E presa una sferza in mano, toccava or questo o quello, dicendo «fatti qua, fatti là». Ed i cavalli, stringendosi la coda fra le gambe e facendosi tutti in un groppo, ubbidivano al patrone. Aveva Pisardo tra gli altri un cavallo assai bello di vista, ma vicioso e poltrone, e di lui poco conto teneva, ed accostatosi a lui con la sferza diceva «fatti qua, fatti là», e lo batteva. Ed il cavallo, di natura poltrone, si lasciava battere, ma non facendo cosa alcuna di quello che voleva il patrone. Anzi, tirava calzi or con uno piede, ora con l'altro, ed ora con ambiduo. Onde, vedendo Pisardo la durezza del cavallo, prese un bastone fermo e sodo, e li cominciò a pettinare la lana di maniera che se gli stancò intorno. Ma il cavallo, più ostinato che prima, si lasciava battere né punto si muoveva. Pisardo, vedendo la dura ostinazione del cavallo, s'accese d'ira, e messa mano alla spada che al lato aveva, l'uccise. Fiorella, veduto l'atto, si mosse a compassione del cavallo e disse: «Deh, marito, perché avete voi ucciso il cavallo? Egli era pur bello, egli è stato un gran peccato». Pisardo, con turbata faccia, rispose: «Sappi che tutti quelli che mangiano il mio e non fanno a mio modo premio di sì fatta moneta». Fiorella, udita tal risposta, molto si contristò e tra sé medesima diceva: «Ahimè, misera e dolente, come son io con costui mal arrivata! Io mi credevo aver per marito un uomo prudente, ed hommi incappata in un uomo bestiale. Guarda come per poco o per niente egli ha ucciso un così bel cavallo». E così tra sé molto si ramaricava, non pensando a che fine il marito questo diceva. Per il che Fiorella s'era posta in sì fatto timore e spavento del marito, che come muoverlo sentiva tremava tutta, e quando egli le ordinava cosa alcuna, subito le sequiava, né appena il marito aveva aperta la bocca ch'ella lo intendeva, né mai vi era tra loro parola alcuna che molesta fosse. Silverio, che molto amava Pisardo, sovente lo visitava, e desinava e cenava con esso lui, e vedendo i modi e i portamenti di Fiorella, molto si maravigliava, e tra se stesso diceva: «Dio, perché non mi toccò la sorte di aver Fiorella per moglie, sì come l'ebbe Pisardo mio fratello? Guarda come ella governa bene la casa e fagli servigi suoi senza strepito alcuno. Guarda come è ubbidiente al marito e fa ciò che egli le comanda. Ma la mia, misero me, fa tutto il contrario ed usa contra di me quel peggio che usar si puole». Trovandosi un giorno Silverio con Pisardo e ragionando di varie cose, fra le altre disse: «Pisardo, fratello mio, tu sai l'amore che è tra noi. Io volentieri saprei da te qual via tenuta hai in ammaestrare la moglie tua, che ti è sì ubbidiente e tanto ti accareccia. Io a Spinella non possa sì amorevolmente comandare cosa alcuna, che egli ritrosamente non mi risponda, e appresso di questo fa tutto il contrario di quello che io le comando». Pisardo, sorridendo, puntualmente gli raccontò l'ordine e il modo che egli tenuto aveva quando a casa la tradusse, e li persuase che ancora egli dovesse fare il simile e veder se gli giovasse, e quando questo non gli giovasse non saprebbe che ricordo dargli. Piacque a Silverio l'ottimo ricordo, e presa licenza da lui si partì, e giunto a casa senza indugio alcuno chiamò la moglie, e prese un paio delle sue bracche e due bastoni e fece tanto quanto Pisardo consigliato l'aveva. Il che, vedendo, Spinella disse: «Che novità è questa, Silverio? Che voi fate? Che capricci vi son sopraggiunti nel capo? Sareste mai voi divenuto pazzo? Non credete voi che noi sapemo che gli uomini e non le donne debbano portare le bracche? E che bisogna ora, fuor di proposito, tal cosa fare?» Ma Silverio nulla rispondeva e continuava l'incominciato ordine, dandole la regola del governo della casa. Spinella, maravigliandosi di questo, sgrignando disse: «Parvi fosse, Silverio, che ancora io non sappia il modo di governar le cose vostre, che così caldamente me le mostrate?» Ma il marito taceva, e andatosene con la moglie alla stalla, fece parimente di cavalli tutto quello che fatto aveva Pisardo, e ne uccise uno. Spinella, vedendo tal sciocchezza, tra sé medesima pensò lui aver veramente perso lo senno, e disse: «Deh! Ditemi per vostra fe, marito mio, che accidenti sono questi che vi sono sopraggiunti nel capo? Che vogliono dir queste pazzie che voi fate senza considerazione? sareste forse voi per vostra mala sorte divenuto insensato? Rispose Silverio: io non sono impazzito, ma tutti quelli che vivono a mie spese e non mi ubbidiscono castigo in cotal guisa come hai veduto. Accortasi Spinella del fatto bestiale del sciocco marito, disse: ahi, meschinello voi! Par bene che il cavallo vostro sia stato una semplice bestia, avendosi sì miseramente lasciato uccidere. Ma che pensiero è il vostro? Pensate voi di far di me quello che avete fatto del cavallo? Certo, se voi lo credete, vi ingannate molto. E troppo tardo siete stato a provvedere a quello che ora vorreste provvedere. L'osso è fatto troppo duro, la piaga è ormai incancarita, né vi è più rimedio. Più per tempo voi dovevate provvedere alla vostra strana sciagura. Pazzo e senza cervello, non vi avvedete di quanto danno e di quanto scorno state vi sono le vostre innumerabili sciocchezze? E di questo che ne conseguirete voi? Certo nulla. Udendo Silverio le parole della sagace moglie e conoscendo per lo troppo amore nulla aver operato, deliberò a suo malgrado la trista sorte sino alla morte pazientemente sofferire. Spinella, vedendo il consiglio non essere stato profittevole al marito, se per lo addietro aveva d'un dito fatto a modo suo, nello avvenire fece d'un braccio. Ciò che la donna, ostinata di natura, piuttosto patirebbe mille morti che mutare la ferma sua deliberazione. Fine della storia. Risero assai le donne della sciocchezza di Silverio, ma molto più ridevano quando le sovveniva il duello delle bracche, qual di loro portarle dovesse. Perciò che le risa crescevano e il tempo volava, la signora fece di atto che ognuno tacesse, e Cateruzza con l'enimma l'ordine seguitasse, ed ella, sapendo il voler suo, così disse: «Vorrei, donne, morir con esso voi, s'indovinar sapeste, com'è detta, la cosa mia che tanto piace a voi, anzi a ciascun che la gusta diletta. Ella mi dà coi dolci accenti suoi la lingua in bocca, ed io la tengo stretta. Ma avvertite che, quando giaccio seco, ognun mi può veder, se non è cieco». L'enimma da Cateruzza recitato fu di maggior piacere che la favola da lei raccontata, perciò che diede materia ampia di ragionare, e a chi a un modo e chi ad un altro l'interpretava. Ma la loro interpretazione era molto lontana dal vero, onde la prudente Cateruzza, tutta gioiosa e festevole, sorrise alquanto, e con la licenza della signora in tal maniera le spose: «Il mio enimma altro non dinota eccetto la piva sordina, la quale dà la sua legnetta in bocca di colui che la suona e tiella stretta e diletta molto gli ascoltanti». Piacque ad ognuno la dichiarazione del sottile enimma e quella sommamente comendò. Fine della seconda favola dell'ottava notte. Registrazione di Marzia Marianera.